Ad alta voce. Elia Shilton legge Niente di nuovo sul fronte occidentale di Erich Maria Remarque. All'ospedale da campo c'è gran da fare. Puzza come sempre di creolina, di pus e di sudore. La vita di baraccamento abitua a tante cose, ma qui è facile che uno si senta venir meno. Cerchiamo di rintracciare Kemmerich. È coricato in una sala e ci riceve con una fioca espressione di gioia e di impotente agitazione. Mentre era svenuto, gli hanno rubato l'orologio. Müller scuote la testa. Te l'ho sempre detto, un orologio di quel valore non si porta addosso. Müller è un balordo e vuol sempre aver ragione, altrimenti starebbe zitto, perché si vede bene che Kemmerich non uscirà più vivo da questa sala. E dunque, che trovi o no il suo orologio, che cosa importa? Tutt'al più si potrà mandarlo dopo alla famiglia. Come va, Franz? Domanda Kropp. Kemmerich reclina il capo. Così. Ma mi duole maledettamente il piede. Guardiamo la sua coperta. Ha la gamba sotto un archetto di ferro e sopra si stende greve la coltre. Do una pedata di nascosto a Müller perché sarebbe capace di dire a Kemmerich ciò che gli infermieri fuori ci hanno raccontato, che il piede non c'è più perché la gamba è amputata. Ha un brutto aspetto, giallo e livido. Sul viso si profilano già le strane linee che conosciamo tanto bene per averle osservate centinaia di volte. Non sono nemmeno linee, ma piuttosto segni. Sotto la pelle la vita non pulsa più, respinta fino ai margini del corpo. La morte si fa strada dall'interno e domina già gli occhi. Eccolo là, il nostro compagno Kemmerich, che poc'anzi cucinava con noi carne di cavallo e gironzolava per le trincee. È ancora lui, eppure non è già più lui. La sua figura si è sfumata, è diventata incerta come una lastra su cui si siano prese due vedute. Persino la sua voce suona spenta come cenere. Il mio pensiero ritorna al giorno della partenza. Sua madre, una buona grassona, lo accompagnò alla stazione. Piangeva senza requie, ne aveva il volto tutto gonfio. Kemmerich ne era imbarazzato perché fra tutte era quella che meno sapeva contenersi. Si liquefaceva addirittura in grasso e in lacrime. Per di più si era fissata sopra di me. Ogni momento mi afferrava il braccio, supplicandomi di aver cura laggiù del suo Franz. Bisogna dire che lui aveva proprio una faccia da bambino e ossa così tenere che dopo 4 settimane di zaino già aveva i piedi piatti. Ma come si fa ad aver cura di qualcuno in trincea? «Ora te ne andrai a casa», dice Kropp. «Per la licenza avresti dovuto aspettare ancora 3 o 4 mesi». Kemmerich facendo di sì col capo. Non posso guardare le sue mani, sembrano di cera. Sotto le unghie lo sporco della trincea prende una tinta nero-bluastra, come un veleno. Mi viene in mente che queste unghie continueranno a crescere come spettrali fungosità sotterranee, un pezzo ancora dopo che Kemmerich avrà cessato di respirare. Vedo la cosa come se l'avessi davanti agli occhi. Le unghie si torcono a guisa di cavaturaccioli e crescono e con esse i capelli del cranio putrefatto come l'erba su buona terra. Chissà come... Müller si china. Ti abbiamo portato la tua roba, Franz. Kemmerich fa un cenno con la mano, mettetela sotto il letto. Müller eseguisce. Kemmerich riattacca con l'orologio. Come rassicurarlo senza metterlo in sospetto? Müller ripesca sotto il letto un paio di stivali d'aviatore, magnifiche calzature inglesi di fine cuoio che giungono sino al ginocchio e vi si allacciano, un oggetto molto ambito. Müller si entusiasma a vederli, li confronta coi propri scarponi così grossi e goffi e domanda: Vuoi portarli con te, Franz? Tutte e tre abbiamo lo stesso pensiero. Anche se guarisse, non potrebbe adoperarne che uno, quindi non hanno per lui nessun valore. Nella condizione in cui si trova, è un gran peccato lasciarli qui. Lui morto, i soldati di sanità li faranno naturalmente subito passare in cavalleria. E Müller torna alla carica. Non vuoi lasciarli qui? Kemmerich non vuole. Sono la sua cosa migliore. Si potrebbe fare un cambio, insiste Müller. Qui fuori questa roba serve. Ma Kemmerich non si lascia smuovere. Io schiaccio un piede a Müller che, esitante, ripone i bei stivali sotto il letto. Parliamo ancora un poco e poi lo salutiamo. Stai bene, Franz. Gli prometto di ritornare l'indomani. Anche Müller parla di tornare. Pensa agli stivali e vuol montarci la guardia. Kemmerich ha il respiro greve per la febbre. Fuori fermiamo un infermiere e cerchiamo di persuaderlo a fargli un'iniezione. Ma quello rifiuta. Se dovessimo dare la morfina a tutti non basterebbero dei barili. Si vede che non servi che gli ufficiali, osserva Krop iroso. Mi interpongo prontamente e comincio con l'offrire al pappino una sigaretta che egli accetta. Allora gli domando, ma tu sei poi autorizzato a fare iniezioni? Offeso replica, se non lo credete che cosa venite a domandarmi? Gli metto in mano un altro paio di sigarette. Ascolta, facci questo piacere. Va bene, dice lui. Krop torna dentro insieme perché non si fida e vuol vedere. Noi aspettiamo fuori. Müller mi attacca un altro bottone con quei benedetti stivali. Mi andrebbero a pennello. Con queste barche che porto ai piedi, a ogni marcia sono vesciche. Credi che la duri fino a domani all'ora della libera uscita? Se muore nella notte, i suoi stivali li vediamo col binocolo. Albert ritorna. Credete? Domanda. Non ne parliamo più, conclude Müller. Ritorniamo alle baracche. Penso alla lettera che dovrò scrivere domani alla madre di Kemmerich. Ho freddo, vorrei bere un cicchetto. Müller strappa fili d'erba e li mastica. A un tratto il piccolo Krop getta via la sigaretta, vi pesta su i piedi furiosamente, gira intorno gli occhi stralunati, il viso sfatto e mugola. Che schifo, che porco maledetto schifo. Noi seguitiamo a camminare a lungo, in silenzio. Krop si è calmato. Sappiamo bene di che cosa si tratta. È la rabbia della trincea. Ognuno ci casca almeno una volta. Müller gli domanda, Cantore, che cosa ti ha scritto? Egli ride, che noi siamo la gioventù di ferro. Ridiamo tutti e tre amaramente. Krop impreca, lieto di potersi sfogare. Già, la pensano così. Così la pensano i 100.000 Cantorek. Gioventù di ferro. Gioventù. Nessuno di noi ha più di 20 anni. Ma giovani, la nostra gioventù se n'è andata da un pezzo. Noi siamo gente vecchia. Mi fa un effetto curioso pensare che a casa, in un cassetto del mio scrittoio, giace l'abbozzo di un dramma, Saul, e un mazzo di poesie. Ci ho passato sopra molte serate. Quasi tutti abbiamo commesso qualcosa di simile, ma a me la cosa sembra oggi così irreale che non so nemmeno più farmene un'idea. Da che siamo qui, la nostra vita di prima è tagliata fuori, senza che noi si sia fatto nulla per ottenere questo risultato. Talvolta cerchiamo di formarci un concetto, di darci una spiegazione del fenomeno, ma senza riuscirvi. Proprio per noi ventenni tutto è tremendamente confuso, per Krop, per Müller, per Leer, per me, insomma per quelli che Cantor chiama la gioventù di ferro. Gli anziani sono tutti fortemente legati al passato, ne hanno motivo perché hanno mogli, figli, professioni, interessi già tanto forti che la guerra non è riuscita a distruggerli. Noi ventenni abbiamo soltanto i nostri genitori, qualcuno, una ragazza. Non è molto, perché alla nostra età l'influenza dei genitori è ridotta al minimo, mentre la donna non è ancora dominante. All'infuori di questi sentimenti non v'era gran cosa in noi. Un po' d'entusiasmo, qualche mania da dilettanti e la scuola. La nostra vita non andava più in là e di tutto ciò nulla è rimasto. Cantorek direbbe che eravamo sulla soglia dell'esistenza. E in fondo è vero, non avevamo ancora messo radici. La guerra, come un'inondazione, ci ha spazzati via. Per gli altri, per gli anziani, essa non è che un'interruzione, al di là della quale possono ancora figurarsi qualche cosa. Invece noi ne siamo stati ghermiti e non abbiamo idea di come possa andare a finire. Sappiamo soltanto che ci siamo induriti in una forma strana e dolorosa, quantunque non ci si senta neppure più capaci di tristezza. Per esempio, quando Müller aspira a ereditare gli stivali di Kemmerich, non è già che gli compianga il compagno meno di un altro che ad una simile cosa neppure oserebbe pensare. Soltanto Müller ha imparato a distinguere. Se gli stivali potessero essere di qualche utilità a Kemmerich, egli camminerebbe scalzo sul ferro spinato piuttosto che pensare a fargli suoi. Ma così gli stivali sono un oggetto che nulla ha da vedere con la situazione dell'amico, mentre Müller saprebbe bene come utilizzarli. Chiunque ne venga in possesso, Kemmerich morirà ugualmente. E allora perché Müller non dovrebbe stare in agguato? Egli vi ha pure maggior diritto che un soldato di sanità. Quando Kemmerich sarà morto, sarà troppo tardi. Ed ecco perché Müller ci pensa già fin d'ora. Abbiamo perduto il senso di rapporti diversi da questi perché ci sembrano artificiali. Solo i fatti sono veri e importano. E le buone calzature sono rare. Tempo era altra cosa. Quando ci presentammo al comando di presidio, eravamo ancora una classe di 20 scolari che con grande presunzione si fecero tutti insieme radere la barba, alcuni per la prima volta, prima d'entrare in caserma. Non avevamo progetti determinati per l'avvenire, solo per l'infima minoranza la carriera e la professione erano già idee così precise da significare una forma di vita. In compenso, eravamo pieni di idee indistinte che ai nostri occhi conferivano alla vita e anche alla guerra un carattere idealistico e quasi romantico. In 10 settimane ci formarono alla vita militare e in questo periodo ci trasformarono più profondamente che non in 10 anni di scuola. Imparammo che un bottone lucido è più importante che non 4 volumi di Schopenhauer. Stupefatti dapprima, esasperati poi e infine indifferenti, dovemmo riconoscere che ciò che conta non è tanto lo spirito quanto la spazzola del lucido, non il pensiero ma il sistema, non la libertà ma lo scattare. C'eravamo arruolati pieni di entusiasmo e di buona volontà, si fece di tutto per spegnere in noi l'uno e l'altra. Dopo 3 settimane riuscivamo già a concepire come un portalettere, divenuto per caso un superiore gallonato, potesse esercitare su di noi un potere maggiore di quello che prima non avessero i nostri genitori, i nostri educatori e tutti gli spiriti magni della civiltà da Platone a Goethe messi insieme. Coi nostri giovani occhi aperti, vedemmo come il classico concetto di patria, quale ce lo insegnarono i nostri maestri, si realizzasse per il momento in una rinuncia della personalità, quale mai non si sarebbe osato imporre alla più umile persona di servizio. Saluto, attenti, passo di parata, presentarmi, fianco destro, fianco sinistro, battere i tacchi, cicchetti e 1000 piccole torture. Ci eravamo figurati diversamente il nostro compito. Sembrava che ci si preparasse all'eroismo come cavalli da circo, ma finimmo con l'abituarci. Comprendemmo anzi che alcune di quelle cose erano necessarie, mentre altre erano del tutto superflue. Per queste cose il soldato ha un fiuto finissimo. A gruppetti di 3 o 4, la nostra brigatella venne dispersa nelle varie squadre, insieme con pescatori della Frisia, contadini, operai e manovali coi quali si fece presto amicizia. Kropp, Müller, Kemmerich e io capitammo nella 9ª squadra, comandata dal sottufficiale Himmelstoss. Questi passava per il peggior aguzzino della caserma ed era il suo vanto. Un piccolo uomo tozzo che aveva servito 12 anni, baffi rossastri arricciati nella vita borghese, porta lettere. Ci aveva presi di mira in modo speciale Kropp, Tiaden, Vestus e me perché sentiva la nostra silenziosa ribellione. Per lui ho rifatto la branda una mattina 14 volte di seguito. Ogni volta trovava qualcosa da criticare e la tirava a terra. Con un lavoro di 20 ore, naturalmente inframmezzato da pause, ho ridotto, a furia di ungere, un vecchio paio di scarpe dure come pietre ad una tale buttirosa tenerezza che lo stesso Himmelstoss non ci trovò più nulla da ridire. Per suo comando ho tirato a lucido la camerata con uno spazzolino da denti. Kropp e io ci siamo accinti a spazzare la neve del cortile armati l'uno di una brusca e l'altro di un ostaccio, e avremmo continuato fino a totale congelamento se per caso non fosse spuntato un tenente che ci mandò via e dette a Himmelstoss una pipa formidabile con l'unico effetto di inviperirlo più che mai contro di noi. Per 4 settimane di fila sono stato di guardia ogni domenica e per altrettante piantoni di camerata. Con tutte le armi e lo zaino affardellato ho eseguito sul maneggio aperto, tutto molle e bagnato, tante volte i movimenti in piedi, di corsa, a terra, fino a ridurmi a un sacco di mota e a cadere esausto, il che non mi impedì di presentarmi 4 ore più tardi a Himmelstoss col mio corredo perfettamente lavato e pulito, seppure con le mani sanguinanti. Con Kropp, Vestus e Tiaden sono rimasto sull'attenti per 15 minuti, un giorno che gelava forte, le dita nude appoggiate alla canna gelida del fucile, mentre Himmelstoss ci girava attorno, spiando un minimo nostro movimento per constatare una mancanza. Alle 2 di notte sono corso 8 volte in camicia dall'ultimo piano del quartiere fin giù nel cortile, perché le mutande sporgevano alcuni centimetri dal resto del corredo. Accanto a me correva il sottufficiale di settimana Himmelstoss e mi schiacciava i piedi. Ho dovuto fare l'esercizio di baionetta costantemente contro Himmelstoss, armato io di una pesante sbarra di ferro e lui di un leggero fucile di legno, di modo che egli poteva a suo agio e di continuo picchiarmi a livido le braccia. Devo dire che ciò mi rese furibondo, a tal segno che ciecamente lo assalì e gli diedi tale colpo nel petto da stenderlo a terra. Quando volle mettersi a rapporto contro di me, il comandante di compagnia gli rise sul muso e gli disse di stare più attento. conosceva il suo Himmelstoss e credo si rallegrasse in cuor suo della lezione. Ho imparato a salire la pertica alla perfezione. Sono diventato un maestro anche nei piegamenti. Tutti abbiamo tremato al solo suono della sua voce, ma con tutto ciò quel ronzino di posta inferruccito non è riuscito a domarci. Una domenica, mentre Crope e io si portava attraverso il cortile, infilati a una stanga, i secchioni della latrina, Himmelstoss, che passava dinanzi a noi tirato a lucido e pronto ad uscire, ci si piantò di rimpetto e si mise a domandarci se quel lavoro ci piaceva. Nonostante la nostra paura, fingemmo di inciampare e gli rovesciamo il mastello sui pantaloni. Lui vide rosso, ma la misura era colma. «Andrete in fortezza!» urlò. Crop ne aveva abbastanza. «Prima però ci sarà un'inchiesta e spifferemo ogni cosa», rispose. «Chi vi permette di parlare a un sottufficiale?» mugghiò Himmelstoss. «Siete diventato matto! Aspettate di essere interrogato!» «Che cosa volete fare?» «Spifferare ogni cosa sul conto del signor sottufficiale», dichiarò Crop col pollice alla cucitura dei pantaloni. Himmelstoss capì e si allontanò senza una parola. Prima di scomparire gridò ancora: «Ve la caccerò in gola!» Ma il suo potere era finito. Si provò un'altra volta in maneggio con i comandi a terra e in piedi e di corsa. Noi eseguivamo esattamente perché il comando è comando e deve essere eseguito, ma lo eseguivamo con tale lentezza da spingere Himmelstoss alla disperazione. Ci mettevamo con calma in ginocchio, poi sulle braccia e così via. Nel frattempo, furibondo, egli aveva già dato un altro comando. Prima che a noi spuntasse il sudore, lui era rauco. Allora ci lasciò in pace. Continuava bensì a chiamarci carogne sporche, ma c'era del rispetto nella sua voce. C'erano senza dubbio molti sottufficiali assai più onesti e più ragionevoli di lui, erano anzi la maggioranza, ma ciascuno voleva, finché fosse possibile, conservare il buon posticino in guarnigione e per questo doveva mostrarsi energico verso le reclute. A noi fu data così la più raffinata educazione di caserma e spesso abbiamo urlato di rabbia. Alcuni di noi ne ammalarono, Wolf ne è anzi morto di polmonite, ma saremmo apparsi ridicoli noi stessi se ci fossimo dati per vinti. Divenimmo duri, diffidenti, spietati, vendicativi, rozzi. E fu bene, erano proprio quelle le qualità che ci mancavano. Se ci avessero mandato in trincea senza quella preparazione, i più sarebbero impazziti. Così, invece, eravamo preparati a ciò che ci attendeva. Anziché spezzarci, ci adattammo, aiutati in questo dai nostri 20 anni, che pure ci rendevano tanto duri altri sacrifici. Ma il più importante è che fra noi venne in tal modo sviluppandosi un forte sentimento di solidarietà, il quale poi, al fronte, si innalzò a ciò che di più bello abbia prodotto la guerra, al cameratismo. Thank you.